Mix 24, i gialli della storia. Immaginate il più famoso giocatore di calcio di tutta l'Europa. Questo era Pat quando ha preso quella decisione. Mi disse: mi arruolo nell'esercito per diventare un ranger. Chiedevo a Don Peppa. Pat era stato ucciso. Le radio e le televisioni di tutta l'America non facevano che parlare di Pat, di questo eroe ucciso dai nemici. Ero certo al 100% che si trattasse di fuoco amico. La sua morte è stata oggetto di una manipolazione politica. Un campione del football americano, un idolo delle folle che diventa un eroe della guerra al terrorismo di Bush. È la parabola di Pat Tillman, un ragazzo di 27 anni che lascia i campi sportivi per arruolarsi volontario nell'esercito americano e per poi morire in Afghanistan. Ma la sua morte in combattimento è un giallo che sconvolge l'America e che turba la Casa Bianca. Com'è morto davvero Patrick Tillman? E perché il Pentagono ha mentito? Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è una storia tragica e misteriosa che affronteremo grazie alle testimonianze di parenti, amici e colleghi di Pat che gli sono stati vicini. E questa storia inizia vicino a San Francisco. Ho conosciuto Pat nel 1994, il suo primo anno all'Arizona State University con la nostra squadra di football. Non so come avesse iniziato a giocare a football, ma so di certo che quando è arrivato qui, all'Arizona State University, noi volevamo Pat Tillman in campo ad ogni partita. Per Pat il football era una carriera, non necessariamente un modello di vita. Lui avrebbe fatto molto di più con la sua vita. Pat è riuscito a finire i suoi studi in 3 anni e mezzo. Con il massimo dei voti. Era al top della sua classe, impeccabile dal punto di vista accademico e al top delle partite sotto il profilo atletico. Qui all'Arizona State University nel 96 abbiamo avuto una delle migliori stagioni nella storia dell'università. Sia il canale televisivo ESPN che la rivista Sport Illustrated, molto importanti qui negli Stati Uniti, volevano raccontare la storia della nostra squadra e non appena hanno conosciuto Pat sono subito impazziti per lui. Nell'autunno del 1996 sono andato a guardare l'Arizona State giocare. Ho visto un ragazzo fortissimo scendere in campo con il numero 42. Era instancabile, un ragazzo tosto, anche se magro e più piccolo degli altri. Giocava come linebacker. Finita la partita sono andato da lui, mi sono presentato e gli ho detto: Pat, sono Frank Bauer della Southwest Sport. Credo che tu abbia un futuro nel campionato professionisti. E lui, sul serio? Sì, penso proprio di sì. Quando venne selezionato dai Cardinals, Pat andò da McGinnis, il capo dei coach. E mi disse: Coach Mack, ho sentito parlare di lei. Io voglio giocare per lei, mi disse. Ma so anche che mi avete preso perché sono di queste parti e pensate che posso farvi vendere più biglietti allo stadio. Ma se lei mi insegnerà davvero qualcosa, diventerò la star della sua difesa. Un ragazzo generoso e altruista che inizia a giocare nella Lega Professionisti in un ruolo non suo e che però si impone subito per le sue straordinarie doti atletiche. A questo punto Pat Tillman è un campione affermato. Ha soli 22 anni, la squadra degli Arizona Cardinals punta su di lui, ma Tillman è conteso e da St. Louis, la squadra dei Rams, prova a strapparlo agli avversari con un'offerta strabiliante. I Rams erano seriamente interessati a Pat. Ricordo quando mi è venuto a dire che andava a farsi vedere. È venuto a dirmi: ehi coach, mi hanno chiesto di passare da loro. Hanno intenzione di farmi un'offerta. Pensavo di andare. E io gli ho detto: certo che ci devi andare, Pat. Gli offrirono 9,8 milioni di dollari per 5 anni con 2 milioni e mezzo di bonus. Gli chiesi: Pat, com'è andata? Hanno fatto una grossa offerta al mio agente Frank Bauer. Allora chiesi: e che pensi di fare? Ho bisogno di pensarci. E io, scusa Pat, ma a cosa devi pensare? Sono 9,8 milioni di dollari, ti sistemi per la vita. Voi mi avete dato un'opportunità quando non l'ha fatto nessun altro, quindi come posso voltarvi le spalle solo per soldi? Patrick Tillman è all'apice della popolarità e del successo, ma a lui non basta. Mentre già un campione della Lega dei Professionisti vince una borsa di studio per un master in storia all'Arizona State University. Poi però un martedì di fine estate cambia la sua vita. È l'11 settembre del 2001. Pat rimase particolarmente scioccato dalle persone che si buttavano dalle torri, tenendosi per mano e gettandosi nel vuoto. Crescendo nel periodo in cui siamo cresciuti negli Stati Uniti, essendo diventati adulti in questo momento storico, noi non siamo mai stati esposti a questo tipo di incidente, a quel tipo di... Non so neanche come chiamarlo in realtà, ma questo ci ha fatto aprire gli occhi. La tragedia delle Torri Gemelle è un trauma che segna per sempre il destino di Patrick Tillman. In quel campione di football che ama la storia e che rifiuta un contratto da 10 milioni di dollari, si rompe qualcosa. Ho iniziato una trattativa con i Cardinals. Un lungo processo per portarli alla cifra che pensavo Pat meritasse. Gli dissi, Pat, abbiamo bisogno di parlare del tuo contratto. Chiamai Pat. I Cardinals hanno offerto 3,6 milioni di dollari con 1,5 di bonus. Cosa ne pensi? Pat mi disse, guarda Frank, sto pensando ad altro per la mia vita. Per questo c'è tempo. Occupati dei tuoi altri clienti, non pensare a me. La sua vita, quello che avrebbe fatto, il suo contributo alla nostra società sarebbe stato molto più del football. Patrick Tillman ha deciso, il suo futuro non è sui campi da football né sulle copertine delle riviste sportive. Il suo destino è aiutare il suo paese nel momento del bisogno, proprio come ha fatto suo nonno a Pearl Harbor. Nel maggio del 2002 Pat Tillman si arruola nell'esercito, nel corpo scelto dei Ranger. Ma Tillman rifiuta ogni favoritismo, non è una celebrità, non è un campione, non è un divo, è solo un ragazzo che sta facendo il suo dovere per il suo paese. Ma Patrick non è solo, con lui c'è anche suo fratello Kevin. Pat e suo fratello hanno deciso di arruolarsi a Denver per restare nell'anonimato, perché in Arizona li avrebbero riconosciuti immediatamente. Intanto però la Casa Bianca sta per aprire un nuovo fronte nella guerra al terrorismo. È l'inverno del 2003, l'America si prepara a invadere l'Iraq. La Casa Bianca iniziava a parlare di un'eventuale guerra in Iraq. Pat e Kevin a quel punto erano già nell'esercito, ma non erano molto convinti dell'Iraq. Pat era d'accordo sulla presenza delle nostre truppe in Afghanistan, ma era scettico sull'Iraq. Non c'era nessuna prova che l'Iraq avesse armi di distruzione di massa. Saddam Hussein non era certo una minaccia. E questo era quello che più irritava Pat e Kevin. L'idea di andare in questo paese e di invaderlo, quando non aveva niente a che vedere con gli attacchi dell'11 settembre. Nella primavera del 2003 sono stati mandati in Iraq. Sono stati lì più o meno 3 mesi. Credo ci siano stati momenti in cui hanno avuto paura. Sarebbe stato folle non averle. Era estremamente rischioso. Sapevano che avrebbero potuto morire. Sia Pat che Kevin avevano la sensazione che il nostro governo non avesse un piano preciso per l'Iraq, soprattutto su come uscirne. Alcune delle cose che stavano accadendo in quella guerra non erano in linea con le opinioni personali di Pat, con i suoi principi. Pat diceva che il suo obbligo, quello per cui aveva firmato la ferma di 3 anni nell'esercito, fosse restare nell'esercito e ricevere ordini. In the army and taking direction. Patrick Tillman forse non ci crede più. non crede più che questa sia una guerra giusta, non crede più che l'America faccia bene a intervenire militarmente in Medio Oriente e soprattutto a invadere l'Iraq di Saddam Hussein. Di ritorno in America in attesa di una nuova destinazione, confessa agli amici di essere deluso e scettico. E del resto la sua popolarità, l'aver già prestato servizio al fronte, gli consentirebbe a questo punto di lasciare l'esercito e di tornare sui campi da football. Ma il suo senso del dovere prevale su tutto. Patrick Tillman ha preso un impegno e intende mantenerlo, costi quello che costi. Poco dopo sono stati inviati in Afghanistan. A quel punto la mia paura, le mie preoccupazioni si sono spostate su Pat. E non so spiegarmi perché, ma ho iniziato ad avere strani presentimenti. Io e mia moglie eravamo a casa. Le luci erano tutte spente e stavamo guardando la televisione. Il telefono squilla e un amico mi dice: senti, ma Pat è in Afghanistan. E io: perché? Che succede? Ma lui insiste: dimmi, Pat è in Afghanistan. E io ancora: perché? Che c'è? A quel punto mi ha detto di aver sentito che Pat era stato ucciso. Patrick Tillman viene ucciso il 22 aprile del 2004 in Afghanistan. L'eroe americano, il campione di football che ha incantato i tifosi, il ragazzo che si è arruolato per aiutare la sua patria, muore nelle campagne di un paese sperduto. Ma come è morto davvero Patrick Tillman? Che cosa è successo in quel tragico conflitto a fuoco? Chi ha sparato quei colpi fatali? Il primo ad accorrere sul luogo della morte di Tillman è suo fratello Kevin, anche lui in Afghanistan con i Ranger. L'ho scoperto circa 45 minuti dopo. E ancora non mi dicevano com'era morto. Chiedevo: dov'è Pat? Nessuno diceva niente a Kevin. Alla fine qualcuno gli ha detto: Kevin, tuo fratello è morto in combattimento. Dodici giorni dopo la sua morte c'è stato il funerale. Ed è stato proprio durante la cerimonia che l'esercito ha fatto raccontare ad un sottufficiale di marina, un amico di Pat, cosa gli fosse accaduto. Quando si è vittime di un'imboscata, c'è ben poco che si possa fare per sopravvivere. Una di queste è cercare di disimpegnarsi dal punto in cui si è attaccati più velocemente possibile. Uno dei veicoli del convoglio di Pat non riuscì a disimpegnarsi. Pat ha sacrificato se stesso affinché i suoi fratelli potessero vivere. Questo è il racconto che ha ispirato milioni di americani, perché questo era il suo scopo. C'è solo un piccolo problema con questo racconto. È una fiction. Suo fratello Kevin e sua madre non hanno dubbi sulla morte di Patrick Tillman. L'esercito degli Stati Uniti non dice la verità. Un'accusa pesantissima, pronunciata pubblicamente durante una delle varie commissioni d'inchiesta insediate per fare luce su questo caso. La morte di Tillman del resto è uno shock per l'America tutta, un campione amatissimo ucciso in circostanze poco chiare in una guerra molto controversa e discussa. Per settimane il Pentagono continua a sostenere che Tillman è caduto eroicamente, ucciso dai nemici talebani. Poi però alla fine la verità viene a galla. A uccidere Tillman sono stati i suoi stessi compagni. È stato un caso di fuoco amico, un tragico incidente. Ma quanti nell'esercito sapevano la verità? E da quanto tempo? E perché la famiglia non è stata informata subito? Sin dall'inizio, quando l'esercito ha realizzato che questo soldato così famoso, che questo simbolo che si era arruolato volontario in guerra, era stato apparentemente per sbaglio ucciso dai suoi stessi uomini, c'è stato uno sforzo per controllare le indagini e il flusso di informazioni. Patrick Pat Tillman e il suo plotone di Ranger erano a distanza nell'Afghanistan orientale. Questa missione è iniziata con un convoglio di soldati che si muovevano su camion e mezzi blindati equipaggiati con armi leggere. Quando uno dei loro mezzi ha avuto un guasto meccanico. Quindi è stato deciso che il loro plotone venisse diviso. Il primo convoglio, dove era Pat, è partito 10-15 minuti prima del secondo, dove invece era Kevin. I soldati del secondo convoglio, che erano stati incaricati di portare il veicolo guasto sulla strada principale, lungo il percorso si sono resi conto che non avrebbero potuto proseguire lungo la stessa strada. Il capogruppo quindi ha dato l'ordine di tornare indietro e praticamente di seguire lo stesso percorso che Pat, con il primo convoglio, aveva seguito poco prima. Ma il secondo convoglio è stato attaccato e ha iniziato a rispondere al fuoco. Gli uomini del primo convoglio, che era già fuori dalla gola, hanno sentito il rumore degli spari e, pur non sapendolo, hanno intuito che il secondo convoglio fosse dietro di loro. A quel punto i soldati del primo convoglio sono scesi dai loro veicoli e sono corsi sul crinale della gola. Pat era con una milizia afghana e con un giovane soldato, Brian O'Neill. Prima che Pat finisse di comunicarci il nostro piano d'azione, hanno iniziato a spararci addosso da un mezzo blindato. All'inizio gli spari erano brevi e sporadici e lì per lì non siamo riusciti a capire cosa stesse esattamente accadendo. Ma poi ho guardato meglio e ho capito che era fuoco amico. La prima indagine è stata avviata 24 ore dalla morte di Pat dal capitano Richard Scott. E completata in 8-10 giorni, prima che ai testimoni venisse permesso o suggerito di cambiare versione. Ma quella ricostruzione che si avvicinava pericolosamente alla realtà è sparita. Dopo l'indagine del capitano Scott c'è stata un'altra indagine, durante la quale, su pressione del fratello Kevin, lo stesso capitano Scott è stato chiamato come testimone. In quell'occasione Scott ha spiegato che ai testimoni che avevano deposto con lui sotto giuramento è stato poi permesso di cambiare la loro versione sulle condizioni della luce al momento della morte di Pat. Siamo andati a Washington a sentire la versione ufficiale di quanto avvenuto, ma ecco che all'improvviso la storia inizia a cambiare. Questo è quello che volevano noi credessimo, che questi ragazzi erano talmente nel panico e che si sentivano minacciati a tal punto che hanno iniziato a sparare senza controllo. Un incidente apparentemente inspiegabile che lascia irrisolte molte domande. Per tragico paradosso, proprio quella notorietà che Patrick Tillman aveva rifiutato arruolandosi nell'esercito, adesso dà più forza alla sua famiglia nel chiedere la verità. La famiglia da subito ha posto una serie di domande, facendo pressione su ogni canale possibile. Hanno usato il Congresso, il senatore McCain, lo stesso Pentagono. E l'esercito, fino a un certo punto, ha risposto iniziando nuove indagini. Ogni nuova indagine, però, si fermava sempre un attimo prima di arrivare a dover rispondere alle domande della famiglia. La signora Tillman ha capito che era perché suo figlio era diventato un personaggio, che le persone rispondevano alle sue telefonate e alle sue lettere. Insomma, si è resa conto che, cercando la verità sulla morte di suo figlio, in seguito altri ne avrebbero beneficiato. È riuscita ad ottenere diverse indagini, un'inchiesta del Congresso e migliaia di pagine di documenti. È stato duro, senza contare che c'erano molti omissis, perché molti dei nomi e dei luoghi erano stati cancellati e quindi è stato molto difficile scoprirli. Loro non si aspettavano che lei avrebbe letto i documenti. E invece Mary Tillman quei documenti li legge. Con la forza della disperazione e l'amore di una madre riesce a far riaprire l'indagine sulla morte del figlio e a far insediare una commissione d'inchiesta. Ma studiare quelle migliaia di documenti significa anche dover leggere gli ultimi tragici momenti della vita di Pat, nel freddo resoconto dell'autopsia. Una lettura drammatica che però solleva nuovi interrogativi. Sì. Dall'autopsia non sembrava neanche stessero parlando di Pat. Descrivono una persona più alta di quanto non fosse Pat. Si parla di una fede d'oro e la fede di Pat era di platino, per cui semmai poteva sembrare d'argento e non d'oro. L'autopsia evidenzia che sul suo petto c'erano tracce di un tentativo di defibrillazione. E questo è stato un ulteriore shock, perché Pat è stato colpito 3 volte alla testa. Lui è praticamente senza testa e loro gli praticano una defibrillazione. Queste sono domande giuste, ma secondo me non sono le più importanti. Secondo me le più importanti riguardano la responsabilità degli alti vertici e il modo in cui le indagini, i rapporti e le comunicazioni con la famiglia sono stati gestiti. Ma perché qualcuno avrebbe dovuto mentire sulle circostanze della morte di Tillman? Quale poteva essere l'interesse a insabbiare l'incidente? E chi avrebbe avuto il potere di farlo? Sono state raccontate deliberatamente delle falsità e ancora oggi non sappiamo quanto in alto tutto ciò sia arrivato. Non sappiamo cosa sapeva il segretario della difesa nella Casa Bianca. Sono certa che hanno riferito tutto a Rumsfeld. Rumsfeld, il nostro segretario della difesa, quando Pat si è arruolato, gli ha scritto una lettera. Rumsfeld sapeva chi era Pat, il soldato più in vista nell'esercito che per giunta viene ucciso dai suoi stessi commilitoni. Non è credibile che Rumsfeld non ne sia stato informato, perché una cosa del genere, politicamente, è un disastro. I misteri del caso Tillman, insomma, sembrano moltiplicarsi. A Patrick Tillman è stata assegnata una medaglia d'argento al valore, una onorificenza riservata solo a chi viene ucciso dal nemico. E allora, chi ha deciso di conferirla anche a Patrick Tillman? E perché lo ha deciso? In quell'azione Pat si è comportato in modo nobile. Ma invece di dire la verità, hanno inventato una storia, costruito una bugia. Ma Pat non ha vissuto la sua vita in questo modo. Sicuramente Pat non era una persona perfetta, ma era un individuo molto onesto e odierebbe il fatto di essere stato insignito di una medaglia d'argento che non avrebbe dovuto ricevere. La vicenda di Pat Tillman è avvenuta nello stesso momento in cui è venuto fuori lo scandalo di Abu Ghraib. Per questo hanno pensato che questa fosse una straordinaria opportunità. Non solo hanno mentito sul fatto che Pat fosse stato ucciso dai nemici, ma hanno inventato questa storia per farne un eroe da cartone animato e far pubblicità alla loro guerra. Pat è morto combattendo per il suo paese. Io mi auguro che alla fine il suo paese faccia la cosa giusta e scopra cosa gli è successo.